I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Il rapporto della Fondazione Visentini presentato ieri da Luis è impietoso sulla cosiddetta guerra tra generazioni. In sostanza, un giovane che avesse avuto 20 anni nel 2004 ci ha messo 10 anni per costruirsi una vita autonoma. Il dato drammatico è che nel 2020 un giovane a 20 anni ne impiegherà 18 e quindi arriverà a 38 anni prima di garantirsi un'eguale autonomia. Nel 2030 addirittura di anni ce ne metterà 28. Ecco perché la Fondazione Visentini chiede un patto generazionale, ossia un contributo di solidarietà da parte di chi gode delle pensioni più generose, a partire da alcuni pensionati che si sono ritirati con il sistema retributivo, all'interno di un patto fra generazioni. Il tema della maturità fiscale è sicuramente un tema e sicuramente per ridurre questo scarto generazionale può essere necessario almeno studiare l'ipotesi di un contributo solidaristico da parte di chi ha avuto una situazione indubbiamente di maggior vantaggio nella pensione. Un elemento però deve essere chiaro: anche la misura di un contributo solidaristico generazionale tra padri e figli, per intenderci, ha un senso e può avere un'efficacia solo per un tempo determinato. In realtà, se il paese non tornerà a crescere con tassi ben più sostenuti di quelli attuali, anche il patto fiscale tra giovani e pensionati andrà a esaurire i suoi effetti senza che si vedano altre misure possibili. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Prendere i soldi gratis piace a tutti, certamente alle banche anche di più, visto che poi, in teoria, dovrebbero rimettere in circuito. La decisione del sistema bancario europeo di farsi dare in prestito gratis e a lungo termine 250 miliardi di euro dalla Banca Centrale Europea conferma sostanzialmente due cose. Da un lato, le banche si aspettano che molto presto il programma straordinario di aiuti e di finanziamenti per rimettere in moto l'economia e l'inflazione dovrebbe terminare, parliamo sostanzialmente di dicembre, ma anche dall'altro, che la fame di denaro, quando non costa, è altissima. Basti pensare che nel complesso, fra tutte le manovre straordinarie messe in moto per salvaguardare il sistema finanziario e bancario europeo, l'Europa ha speso la bella cifra di 2.300 miliardi di euro, una cifra che, salvate le banche, almeno in parte, vista ancora le difficoltà del mercato, avrebbe sicuramente potuto essere utilizzata, e forse anche meglio, per rimettere in moto i prestiti e l'economia non soltanto in generale dell'Europa, ma soprattutto di quei paesi che continuano a soffrire più degli altri i differenziali con i paesi ricchi. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.